Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto da Francesco Galante, ma soprattutto un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. L'argomento che l'Adico questa mattina vuole trattare, insomma, credo interessi tutti quanti noi consumatori, che sicuramente siamo incappati in un acquisto di olio extravergine di oliva che invece tale non era. Sì, parliamo di olio extravergine che non è risultato tale, ma è risultato di tutt'altro genere e di scelta, di cui sono state coinvolte sette principali ditte in Italia, soprattutto qua nel nord, tra cui Torino e Liguria, ma che ha visto far emergere questa inchiesta le associazioni dei consumatori che hanno fatto dei test su questi prodotti e hanno diffuso i risultati su delle riviste. E sulla base di questo il procuratore Guariniello Raffaele ha deciso di mandare in NAS a prelevare dei campioni, quindi procedere a fare le dovute verifiche, e ad oggi ci troviamo nella ormai nota situazione di cui anche l'olio extravergine d'oliva non è immune a questo genere di truffe. Si parla tanto, no, del fatto che ci sono le etichette che garantiscono i prodotti, quindi consigliamo sempre, anche noi personalmente, di leggere bene le etichette, perché nelle etichette teoricamente dovrebbe esserci scritto quello che andiamo a comprare veramente, quindi nei prodotti del cibo alimentari, leggendo bene le etichette scopriamo che possiamo scegliere un prodotto piuttosto che un altro proprio per il discorso qualitativo, no? Ma evidentemente questo non basta, non è sufficiente. Sì, allora veniamo innanzitutto alle marche, perché riteniamo giusto divulgarle, e soprattutto alle regioni, perché come detto me ne mancava una all'appello, parliamo di Toscana, Liguria, ma anche di Abruzzo, quindi regioni che sono sempre state note per la produzione d'olio. Le marche sono i Carapelli, il Santa Sabina, i Bertoli, il Coricello, il Sasso, il Prima Donna, che è confezionato per la Lidl, e l'antica Badia per l'Eurospin. Quindi abbiamo detto oli che insomma credo che un po' tutti abbiamo avuto modo di avere nelle nostre tavole, e che per effetto di un'analisi di laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia delle Dogane appunto ha scoperto questa. Carlo, io volevo chiederti, ma questa è una truffa che è restata tale nel tempo o magari solo per un periodo questi marchi hanno venduto l'olio di oliva denominandolo olio extravergine di oliva? Qua il dubbio è, possiamo, la domanda recita, il dubbio ho paura che rimarrà irrisolto, perché in questo momento bisogna dire che la scoperta è stata fatta per un puro caso e appunto per effetto di un'analisi eseguita nei test di laboratorio per iniziativa di associazioni di consumatori, per cui un'attività che oggi ha fatto emergere uno scandalo, ma che sicuramente solamente nei giorni successivi potremo sapere realmente a che entità e che durata questa truffa nel tempo c'era. Certamente dobbiamo sempre ritrovarci nella situazione di essere qui e commentare le truffe che i consumatori subiscono sempre a tavola, perché è chiaro che se il prezzo può essere un indicatore di qualità, poi scopriamo che comunque anche le scelte di prime scelte come un olio di extravergine d'oliva, come è capitato in passato per anche prodotti biologici, o pensiamo alla mozzarella di bufala, il latte, insomma, tutto sommato magari possiamo dire controlli funzionano, però non finiamo mai di essere qui a denunciare e a commentare queste vicende. Ecco, io ricordo di aver sentito più volte, anche non molto tempo fa, dire che se un olio costa 3-4 euro al litro c'è da domandarsi se sia possibile. Infatti il prezzo è decisamente basso per quelli che sono i costi di produzione, e quindi quando andiamo al supermercato e troviamo prezzi del genere forse dobbiamo stare un po' attenti. Questo l'ho sentito dire più volte, a prescindere dal caso che abbiamo appena citato e di cui stiamo parlando. Qual è la cosa migliore da fare? Cercare un olio che sia garantito e che costi un po' più dei 4 euro al litro? Beh, certamente il prezzo, come hai detto tu, è un indicatore importante di riferimento, però a questo punto devo dire che non metterei le mani sul fuoco per nessuno, perché oggi vediamo che anche il comparto biologico, per esempio come altri prodotti che erano marchiati DOC, alla fine non ce n'è, non dico che non ce n'è uno che se ne salva, però come ho detto siamo sempre qua puntualmente e possiamo dire che queste truffe si ripetono in maniera quasi ciclica, ci sono stati anche i prosciutti, ricordiamolo, pochi mesi fa, per cui voglio dire, possiamo dire che tutto sommato i controlli funzionano, però adesso bisogna anche vedere come vanno a finire queste grosse inchieste, perché poi alla fine questi produttori meriterebbero la giusta pena e le giuste sanzioni, e non vorrei che questi processi che risultano sempre eterni poi fanno cadere lo scandalo nel dimenticatoio. Noi stessi siamo coinvolti ogni giorno con utenti che ci chiedono iniziative da fare, se ci costituiamo parte civile nei processi. In questo momento ricordiamo anche agli ascoltatori che c'è un'inchiesta, quindi ci sarà tutta una fase istruttoria che vedremo come andrà a completarsi, però certamente si può già oggi parlare insomma di una truffa al danno dei consumatori, che certamente avranno tutto il loro diritto a portare avanti le proprie dimostranze, e anche l'Adico in questo senso si dovrà muovere nei prossimi tempi o nei prossimi mesi. Certo, consideravo mentre parlavi il fatto che oltretutto queste ditte hanno creato un danno a chi invece magari si trovava costretto a vendere l'olio extravergine di oliva a prezzi magari più bassi proprio per stare in linea con i prezzi del mercato. Ma certamente il danno poi quando accadono queste cose lo ricevono tutti. Certamente si può parlare di un comportamento discorretto, pratiche commerciali scorrette, ma io comincerei anche a parlare proprio di vera e propria colossale truffa, perché sai, produrre un prodotto e vendere per un altro, certamente ormai bisogna anche rendersi conto che i consumatori a tavola si trovano a essere delle vittime. Certamente è una vicenda che speriamo che si concluda alle svelte, ma che possa fare giustizia e che queste sentenze possano essere esemplari a tal punto da far desistere a chi vuole fare il furbetto di continuare a farlo, perché dobbiamo finire di trovarci qua ogni 2 o 3 mesi a parlare sempre di qualche scandalo alimentare, quando poi di mezzo c'è la nostra salute. Certo, in questo caso non è che facesse male l'olio di oliva, ma sicuramente non ha le qualità dell'olio extravergine. Queste sono tutte cose di cui dobbiamo continuare a stare allerta, e quindi è importante parlarne. Grazie all'Adico e grazie al presidente Carlo Garofolini per essere stati con noi anche questa giornata. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.